era Harry Potter. Goderci a mano. Ma stiamo scherzando. Che è grazie a me che hanno scoperto che non andava, perché chiamavo io. Sempre.